Prego, prego, un momento di silenzio, grazie. Questa è la chitarra di Mario Gangi. Eccomi qua. Alla quale si è aggiunta la chitarra elettrica di Franco Cerri. Ciao a tutti! Il titolo del brano è Green Sleeves, si tratta di un'antica ballata. E su questa introduzione musicale mi presento. Sono Franco Nebbia. Iniziamo da qui un corso di chitarra che procederà in due direzioni. Una insegnerà la chitarra cosiddetta classica, o se preferite spagnola, vale a dire quella che si pizzica con le dita. Queste lezioni saranno condotte da Mario Gangi. L'altra sarà quella di insegnare la chitarra che si suona con un mezzo meccanico, vale a dire un pezzo di plastica tenuto tra pollice e indice e comunemente chiamato penna, e detto più tecnicamente plettro. Questo corso sarà condotto da Franco Cerri. Ora, dal momento che avete davanti agli occhi questa pubblicazione e state ascoltando questa cassetta, si suppone abbiate anche una chitarra e la voglia di impararla. Se studierete con amore, potrete diventare bravi, proprio come Mario Gangi e Franco Cerri. No, beh, beh, il problema, sono venuto qui per imparare anch'io con tutti gli altri, non è che... No, no, no, sta buono, dai, sta ma buono. Lasciami fare! Nebbia, lo conosci questo? Puoi abbassare, per favore? Ecco, sì, sì, è bellissimo, però ci vuole un momento di pazienza, amici. La lezione non è ancora cominciata. Ma scusa, io so già un sacco di accordi. Scusa, tu chi sei? Io sono Marco, perché? Ecco, senti, Marco, cerca di renderti conto che in un corso di insegnamento non si può pensare soltanto ai più bravi, no? Inoltre, questa non è una gara. Per questo si parte tutti da zero e poi si vedrà. Però Marco è già bravo, non hai sentito? Certo, ha fatto qualche accordo. Tu chi sei? Come ti chiami? Angela. Angela. Allora, il nostro amico potrà diventare ancora più bravo. Però tu vuoi imparare, se non sbaglio. Sì. E allora con te che ci facciamo? Ti lasciamo indietro per badare solo a lui? Ah, ok. Bene. Ok, sono d'accordo. Magnifico. E allora, disponiamoci tranquillamente ad ascoltare la prima lezione di Mario Gangi. Ah, questa è una chitarra scordata. Dal che si capisce che l'accordatura dello strumento è essenziale. Richiede tempo e pazienza e va realizzata nel modo seguente. Prima di tutto è necessario avere un diapason. Questa nota è un La. Ecco, con questa nota, il La, bisogna accordare la quinta corda a vuoto. A vuoto vuol dire che le dita della mano sinistra non devono pigiare sulle corde né sulla tastiera. Ecco, abbiamo accordato il La. Pigiando il quinto tasto della quinta corda, così si ottiene la nota Re. E con questa nota possiamo accordare la quarta corda, sempre a vuoto. Adesso, pigiando il quinto tasto della quarta corda, si ottiene il Sol, esattamente così. E con questa nota accordiamo la terza corda a vuoto. Attenzione, adesso cambia. Pigiando il quarto tasto della terza corda, si ottiene la nota Si, con la quale possiamo accordare la seconda corda a vuoto. Una volta ottenuto il Si, pigiamo il quinto tasto della seconda corda. e così otteniamo la nota Mi, con la quale possiamo accordare la prima corda, la più sottile, sempre a vuoto. Ecco, adesso dobbiamo accordare la sesta corda e per ottenerla è sufficiente pizzicare la prima, che è uguale alla sesta, solo che è due ottave sotto. Adesso la chitarra è accordata. Le corde sono Mi, La, Re, Sol, Si, Mi. Per vostra comodità ripetiamo le sei note corrispondenti alle sei corde a vuoto. Ecco il Mi, sesta corda, la più bassa. Passiamo a La, quinta corda. La quarta corda è il Re. La terza è il Sol. Ecco la seconda, il Si. E la più alta, il Mi, la prima corda, detta anche cantino. Spero che anche la vostra chitarra adesso sia perfettamente accordata. Primo esercizio di Mario Gangi. Ogni esercizio è illustrato in due versioni. Il tabulato, che corrisponde alle sei corde della chitarra, per chi non conosce ancora la musica. Il pentagramma, per gli altri. Questo primo esercizio riguarda la sola mano destra e precisamente le dita indice e medio. Alternando le due dita, pizzicate quattro volte la prima corda, indi quattro volte la seconda corda, poi la terza, fino alla sesta, per poi risalire all'inverso, dalla sesta alla prima. Ed ora eseguitelo insieme a Mario Gangi. Prima corda, indice, medio, indice, medio. Seconda corda, indice, medio, indice, medio. Terza corda, quarta corda e così via. Ora risaliamo dalla sesta corda verso la prima. Sempre adagio. Indice medio. Indice Ecco, per cortesia, ripetete questo esercizio con molta pazienza, è importante. Secondo esercizio. Apparentemente è uguale al primo. In realtà è cambiato l'ordine della diteggiatura. Quindi non più indice medio, indice medio, ma medio indice, medio indice. L'importanza dell'esercizio consiste nel saper dare alle quattro note uguali la stessa sonorità. Seguite l'esempio. Medio, indice. Medio, indice. Seconda corda. Medio, indice. Medio, indice. Terza corda. Medio, indice. Medio, indice. Quarta corda. Medio, indice. Medio, indice. Sempre la stessa sonorità. Naturalmente, poi si ritorna da capo. Dal basso si ritorna verso l'alto. Medio, indice. Medio, indice. A questo punto è possibile che il braccio e le dita siano un po' indolenzite. E allora concedetevi qualche minuto di riposo. Terzo esercizio. Adesso si pizzicano due corde diverse, alternando il dito medio e il dito indice sulla prima e sulla seconda corda. Così. Medio, indice. Medio, indice. Medio sulla prima, indice sulla seconda. Stessa intensità, stesso volume di suono. Il medio pizzica la prima e l'indice la seconda. Adesso, spostando gradatamente la mano verso l'alto, pizzicate col medio la seconda corda e con l'indice la terza. Provate. Medio, seconda, indice, terza. Medio, seconda, indice, terza. Ora spostate ancora gradatamente la mano verso l'alto e proseguite l'esercizio. Il medio pizzica la terza e l'indice la quarta. Medio, indice. Medio, indice. Proseguite così per la quarta e la quinta, e per la quinta e la sesta. Ora all'inverso, verso la corda più alta. Procedendo in questo modo, vale a dire sollevando la mano verso l'alto, dovete riuscire ad evitare di chiudere la mano ad artiglio. Per meglio dire, le falangi delle dita devono mantenere la stessa lieve flessione sia quando pizzicano la prima e la seconda corda, sia quando arrivano più su alla quinta e alla sesta corda. Avrei una proposta da farvi che spero vi piacerà. Si tratta di suonare con noi Greensleeves. Questa proposta rappresenta un salto in avanti che forse vi impegnerà notevolmente. Ecco di che si tratta. Mario Gangi e Franco Cerri suonano assieme Greensleeves. Subito dopo Cerri eseguirà separatamente il canto affinché lo possiate apprendere con facilità. Poi Gangi proporrà il solo accompagnamento sul quale potrete cimentarvi con la vostra chitarra. Che ve ne pare? Ed ora che abbiamo ascoltato il motivo completo, Cherry esegue da solo il canto senza accompagnamento. Dopo Cherry abbiamo l'accompagnamento solo eseguito da Gangi. Su questo, con la vostra chitarra, potete provare ad aggiungere il canto che avete appena appreso. La musica è una rivelazione più alta di qualsiasi saggezza e di qualsiasi filosofia. Lo ha detto Beethoven e Mario Gangi è d'accordo.